quello che mi manca. Vorrei poterti dire quello che non so. Vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo. Punto. Vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo. Punto. Benedetta la luce, così ti posso guardare, coprirla con la camicia quando facciamo l'amore. Benedetta autostrada, specialmente di notte, che quando guido solo ascolto musica e ti penso e ti penso, e prima o poi arrivo. E se stai ancora dormendo mi piace anche di più, che ti sveglio, ti bacio e poi ti riaddormenti, non subito però, solo dopo un po'. Vorrei poterti dare quello che mi manca, vorrei poterti dire quello che non so. Vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo. Punto. Vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo. Punto. Benedetto ritardo che ci ha fatto incontrare il giorno in cui avrei dovuto essere puntuale. Loro aspettano ancora ma io ho cambiato programma da quando nella vita ci sei tu. E ti scappo e ti inseguo e poi ci raggiungiamo. È un tango inesorabile la nostra melodia. Vorrei poterti dare quello che mi manca, vorrei poterti dire quello che non so. Vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo. Punto. Vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo. Punto. Benedetta la rosa, specialmente le spine, che fanno in modo di tenerla in mano con attenzione, perché le cose più belle stanno in equilibrio, così come la storia di noi due, che profuma e che punge e che non ci dà tregua, a meno che non lo vogliamo noi, che ti scappo e ti inseguo e poi ci raggiungiamo, è un tango inesorabile la nostra melodia. Vorrei poterti dare quello che mi manca, vorrei poterti dire quello che non so. Vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo. Punto. Vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo. Punto. Vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo. Punto. Vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo. Vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo. Punto. Vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo.